preferito gli amici a noi, delle altre non ti ho detto mai, anche se so che lo sai. Tutti i dubbi miei.